è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, i messaggi sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it è la nostra mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Napolitano nelle zone terremotate loda i soccorsi, ma ora serve un esame di coscienza nazionale dopo questa tragedia. Berlusconi, nuovi aiuti dal governo. Sale a 281 il numero dei morti, tanti gli studenti, la terra continua a tremare ma si scava ancora e l'Abruzzo si prepara al giorno del dolore, domani i funerali di Stato. Ritrovato in Calabria il bambino di 5 anni scomparso a San Marco Argentano, qualche graffio ma sta bene, l'abbraccio con i genitori, la gioia di tutto il paese. Il delitto di Garlasco alle battute finali, il processo, l'accusa chiede 30 anni con rito abbreviato per l'unico imputato Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, parola ora alla difesa. Bene, andiamo a sentire la copertina di Studio Aperto. Ciao amici, io faccio la cantante chiaramente. Studio Aperto inizia così, con la voce, immagino, di una cantante, di una giovanissima cantante 22enne che è morta purtroppo nel terremoto in Abruzzo. 800 24 0024 per chiamarci. Vi ripropongo alcuni passi di Striscia la Notizia di ieri sera, molto interessanti, alcuni li abbiamo già proposti nei giorni scorsi, sul modo in cui sugli strafalcioni dell'informazione in questi giorni, del caso TG1 abbiamo già parlato per due giorni di seguito, Striscia Notizia ha riproposto il Matrix con la giornalista che andava a disturbare le persone dentro la macchina, sentite. Nel quartiere di Colli. La brillante inviata di Matrix si aggira nei dintorni dell'Aquila con in testa un'idea meravigliosa, fare la domanda dell'anno agli sfollati. Come? Svegliandoli nel cuore della notte. Scusate? Possiamo? Scusi, se la disturbiamo. Come mai qua in macchina? Perché la casa non è agibile. Ma che domanda è? È normale, si devono arrangiare in auto perché la casa è inagibile. Pur di reiterare la geniale domanda, è disposta pure a forzare le portiere. Scusate, signori? Scusate, posso? Mi apre? Buonasera signora, come mai qua in macchina? La luce è troppo forte. Ma poverina, la sta accecando, ma non si ferma. Scusate, possiamo? Buonasera, scusateci. Come mai qua in macchina? Perché le case non sono agibili e quindi bisogna stare fuori. Ma l'ha capito o no che le case sono pericolanti? Poi continua con le domande inopportune. Avete mangiato voi oggi? No, oggi no, per niente. Come mai? Perché non avevate fame o perché? No, i signori aspettavano solo il menù del catering. Andiamo! È fantastico, l'avevamo già sentita la giornalista di Matrix, e però insomma c'è il commento di quelli di Striscia la Notizia che non è male. Se la prende sempre con Matrix, Striscia, questa volta con Alessio Vinci, e devo dire che insomma, sentite. Restiamo a Matrix con il conduttore Alessio Vinci, il comandante intervistato fa una premessa molto chiara. Vi chiedo scusa in anticipo, ma io ho pochissimi minuti da dedicarvi in quanto devo ritornare immediatamente sul terreno di... Allora, comandante lavoro. Di Bernini, lei... E Vinci che fa? Per agevolarlo gli fa addirittura tre domande. 44 ore. Mi dica brevemente quali sono le difficoltà in questo momento e se effettivamente lei pensa che ci sono ancora dei corpi da estrarre e se lei pensa che siano vivi. In un momento ci abbiamo ancora una scossa. Guardi, proprio in questo momento c'è stata un'altra scossa. E ci poi all'improvviso una scossa. Emergenza, il comandante vuole raggiungere i suoi uomini e Vinci che fa? Lo trattiene facendogli un'altra domanda. Per cui... che non è stabile. Esattamente, per cui io vi dico che vi devo soltanto salutare in questo momento perché devo ritornare nel terreno delle operazioni per con via, i miei uomini. Per via di questa scossa, è stata molto potente. Comandante, l'ultima domanda, quali sono le probabilità che ci sia ancora qualcuno vivo sotto queste macerie? L'insistenza di Alessio Vinci. Sentite quello che accade invece con Lamberto Sposini sulla RAI. Dal vice Mentana al vice Cucuzza. Sposini è proprio compenetrato nel dramma e lo fa capire all'esperto della protezione civile. Comandante, però ci dica che cosa fate, perché purtroppo devo chiamare la pubblicità. Sì, va bene. Cerco di dire, lei mi fa una domanda, cerco di rispondere. No, lo so, però... Per Sposini la corsa contro il tempo è quella per salvare gli spot. E ora uno scoop. Sappiamo con certezza chi verrà assegnato il premio Pulitzer 2009. The winner is... Paolo Capresi di Studio Aperto per questo intervento. La portano giù dal cielo, su una scala dei pompieri. Disperse per 30 ore tra le macerie, rivede il sole del mattino. Sono le 8. Ferma. Attenti ora. Fatta, è contenta. Roba da non credere. Sì, l'ho visto. Signora, ce l'ha fatta, è contenta. Capresi, ma secondo te... Questo accade alla RAI a Studio Aperto. È l'ultima cosa che vi abbiamo proposto da... Striscia la notizia 800 24 00 24. La guerra all'interno della maggioranza sulla questione delle ronde e dei centri di permanenza per gli immigrati. Ieri è passato un emendamento approvato con i voti del Partito Democratico, anche della maggioranza senza la Lega, che blocca a 60 giorni il massimo periodo di permanenza all'interno dei centri per i clandestini. La Lega voleva ampliare questo margine a 6 mesi e poi naturalmente la questione delle ronde. Maroni si dice furibondo. Sono furibondo, anzi dire che sono furibondo è usare un eufemismo per quello che è avvenuto oggi alla Camera. Il voto di oggi è un vero e proprio indulto per i clandestini. Abbiamo assistito nel 2006 all'indulto per i cittadini italiani, oggi si è replicato con l'emendamento del PD e dell'UDC, votato anche da alcuni franchi tiratori del PDL, si è replicata la stessa norma. Oggi si è votato l'indulto per i clandestini. Addirittura, secondo il quotidiano Libero, potrebbero essere liberati, tra virgolette, potrebbero andarsene dai centri di permanenza 1000 clandestini alla fine di aprile, e dunque c'è un Vittorio Feltri arrabbiatissimo. Sentite che intesa di amorosi sensi, che colloquio amichevole tra Vittorio Feltri e Claudio Bracchino, che è uno dei conduttori di Mattino 5, parlano dei cosiddetti franchi tiratori come degli idioti e degli imbecilli. Sentite. Non solo perché dai banchi della maggioranza si è capito che mancava molta gente, ma perché qualche franco tiratore, che è sinonimo di idiota, è stata bocciata. Questo comporterà una tragedia per noi. Più di 1000 clandestini il 28 aprile lasceranno il centro di identificazione e, senza avere un documento in tasca, senza avere un lavoro, senza avere una dimora, senza nulla in tasca, neanche una lira, se ne andranno in giro per l'Italia. E cosa faranno per campare, poveracci? Poverini. Fatalmente diventeranno manovalanza, non tutti, ma quasi tutti manovalanza per la criminalità. Non era il caso. Non era il caso, dice Feltri, di approvare questo emendamento, anzi di bocciare, credo, l'emendamento della Lega. E Berlusconi e il referendum, perché c'è stata una svolta da parte del Presidente del Consiglio a proposito dell'accorpamento del referendum insieme alle elezioni europee. Berlusconi ha detto oggi le osservazioni del Partito Democratico sono degne di approfondimento, cioè il risparmio di 400-500 milioni di euro mettendo insieme il referendum con le elezioni europee e le elezioni locali, cosa a cui la Lega è fortemente contraria, perché è molto più facile in questo modo raggiungere il quorum, e la Lega è contraria all'esito del referendum. Sentite Berlusconi, pochi secondi ma significativi. Il referendum è una cosa di cui parleremo al prossimo Consiglio dei Ministri. Sì, io penso che valga la pena di un'ulteriore riflessione, perché le argomentazioni che sono state esposte sono degne di approfondimento. Vedremo, naturalmente, tutto poi rientra anche nei rapporti con la Lega. Iniziamo il filo diretto con voi che ci ascoltate e ci chiamate. Luigi dalla provincia di Lucca, buonasera. Oh, buonasera. Ora volevo fare due brevi flash sulle notizie che avete dato. Ora, lungi dal voler squadrare da ogni lato, come diceva il grande Montale, trovare la parola che squadra. Comunque avete dato un esempio di quelli che sono un po' i nuovi mostri, no? Cioè quelle potrebbero entrare i giornalisti, come tutte le categorie che possono essere messi sotto accusa in Italia. In ogni categoria c'è il buono e il cattivo, e anche la categoria dei giornalisti ha dimostrato di avere i suoi piccoli mostri nella sua, quei cosiddetti giornalisti anche che c'erano nel film La Dolce Vita sono sempre presenti, no? Ora volevo dire questo, però in un mondo, a proposito del terremoto, in un mondo sempre più attento, specialmente nel lavoro, alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, laddove si verifichi un infortunio, occorre preparare dei documenti, io parlo da imprenditore, occorre valutare, ci vengono fatti continuamente presenti giustamente quelli che sono i nostri doveri su come prevenire le possibili conseguenze di determinati, non rispettare determinate norme. Mi sembra che in questo caso, ora, secondo me il governo, mi è sembrato un po' che il Napolitano abbia avuto un po' paura a dirlo, ha voluto velatamente dire la responsabilità è di tutti, ci sono responsabilità diffuse, ha usato questi termini, probabilmente spero che anche il governo si faccia comunque motore lui stesso con una commissione, proponendo il governo stesso una commissione d'inchiesta su quello che è avvenuto. Ma speriamo che non si proponga una commissione d'inchiesta, Luigi, perché le commissioni d'inchiesta parlamentari sono qualcosa di disastroso. Allora, anche le inchieste della magistratura sono lente, insomma la situazione non è per niente, non è per niente bella da questo punto di vista. Se non abbiamo fiducia nelle commissioni d'inchiesta dei nostri parlamentari, possiamo. No, ma le commissioni è l'esperienza. No, ma è l'esperienza che ci insegna una cosa: le commissioni d'inchiesta parlamentari non servono assolutamente a nulla. Adesso allora, forse so, ci saranno, bene, ci saranno delle indagini della magistratura. Parte civile, il governo. No, mi scusi, Luigi. Chiede... Adesso ci saranno probabilmente delle inchieste della magistratura andando a spulciare gli appalti, il modo in cui sono stati fatti, che tipo di materiali sono stati utilizzati. Ci saranno delle inchieste, forse porteranno a delle responsabilità, se ci sono delle responsabilità, naturalmente. E poi un'altra piccola osservazione, sì, poi prego. Chiudo. Per quanto riguardava i decreti e la legge, che la Lega, che io mi ricordo al tempo in cui ora l'Aquila è all'incirca verso la metà del nostro paese, in linea retta forse corrisponde a Roma, laddove la Lega qualche anno fa, non so se lei si ricorda sempre, laddove voleva mettere il muro famoso per cui dividere l'Italia, e non sarebbe mai andata a Roma laddove c'erano tutti i ladroni, che vuole e vederla dire, che ora ha alzato un po' l'asticella e il pericolo non sono più i meridionali, i terroni, come li chiamavano a Milano una volta, ora non so se li chiamano sempre così, e ora invece il nemico è diventato l'extracomunitario, salvo poi dopo assumerlo perché non si trovano altri. Oggi se dobbiamo cercare un dipendente che svolga determinate mansioni è difficilissimo trovare in determinati settori. D'accordo, anche, Luigi. La ringrazio, buona serata. Andiamo a Modena da Roberto, buonasera. Buonasera. E io ho un intervento un po' duro da fare, un po' polemico, anche se sul terremoto, anche se non è il momento, ma io invece reputo necessario farlo. Ho un po' di piccola esperienza nell'ambito delle costruzioni. Sì. Vedendo le immagini al telegiornale, ma penso non solo io, tutti i miei conoscenti, gli amici con cui ne abbiamo parlato, siamo esterrefatti dal fatto che sono crollate delle case fatte di cartapesta, di bulla. Aria fritta, minima scossa ed è, cioè non è rimasto in piedi un mezzo muro, mentre altri palazzi dove si vede tranquillamente dalle panoramiche degli elicotteri, ci sono palazzi in nuova costruzione dove comunque, a parte qualche crepa, sono rimasti perfettamente in piedi. Roberto, l'impressione è questa, è quello che lei ci sta raccontando, cioè l'impressione è che alcuni dei palazzi, soprattutto quelli di nuova costruzione naturalmente, siano stati realizzati con materiale molto scadente, senza... Mi permetta, Cruciani, sì. Però dopo due mesi dove tutti hanno detto che ci sono state scosse su scosse, dove la paura c'era tutte le notti, ma io mi chiedo, ma quei ragazzi e quella gente che gestiva tipo la casa dello studente, ma come fanno a rimanere lì? Cioè, come si fa a rimanere in un posto senza chiedere se è stato modernizzato, se può resistere ancora a scosse un da quello che ci raccontano e ci hanno raccontato in questi giorni alcune persone che hanno vissuto anche la casa dello studente, in particolare uno studente della provincia di Latina ieri sera, non è una cosa nuova questa per l'Aquila, le continue scosse eccetera eccetera, magari quest'anno sono state più forti e più profonde. Infatti lui insieme alla sua fidanzata sono andati via, e anche altre persone sono andati via, altri non potevano andare via, magari avevano ancora lezione, oppure non se la sentivano di andare via, oppure non hanno dato troppo peso a queste scosse. Di palazzi o comunque case di 2, 3, 4 piani che ho visto in questi giorni in TV, sì, che hanno resistito benissimo o comunque con lievi crepe senza creare feriti o morti, cioè altre palazzine, altre l'ospedale stesso, cioè sono crollate come no, l'ospedale non è crollato, l'ospedale non è crollato, ma certo è inagibile al 90%, che è più o meno la stessa cosa, non si è portato via diciamo vite umane, però non è stato possibile utilizzarlo, è già di per sé uno scandalo. Roberto, tutte queste cose secondo me vanno verificate a fondo, senza compromessi e senza guardare in faccia a nessuno. La ringrazio di questa telefonata. Andiamo a Claudio da Bologna, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Passando dal bar di Radio 24 prima di tornare a casa, come recita il suo promo, ho ascoltato prima gli interventi che sono stati fatti a Striscia ieri sera riguardo alla trasmissione di Matrix. Sì. E a proposito di questo chiedevo una sua opinione sul fatto che un mese e mezzo fa, adesso non ricordo bene, sulla vicenda di Luana Englaro, il TG5 non si spostò dal proprio palinsesto, come invece invocava Mentana, perché non si poteva. Mentre invece lunedì sera, a causa terremoto, via tutti, arriva Matrix. E io questo, partendo dal presupposto che Luana Englaro e il terremoto li metto sullo stesso piano dal punto di vista dell'impatto mediatico, ritengo che... Non è proprio la stessa cosa, Insomma, ricordiamo che in quei minuti in cui morì Eluana Englaro si stava facendo un dibattito parlamentare ed erano state coinvolte le più alte Claudio, cariche dello Claudio, Stato. Mi perdoni, ma il paragone secondo me non c'è, non esiste. Il terremoto è un evento che ha un grandissimo impatto, ha una valenza nazionale, è uno di quei grandi eventi, di quelle grandi tragedie che... Per le quali si cambiano i palinsesti e tutto, e certamente se fosse andato in onda del Grande Fratello lunedì sera sarebbe stato una cosa micidiale, non sarebbe stato neppure concepibile. La morte di Luana Englaro, seppur drammatica, con un dibattito che ha interessato certamente tutto il paese, è una cosa molto molto diversa. Questo non lo voglio dire entrando nel merito della vicenda Mentana, semplicemente giudicando le due cose. Ok, va bene. Questa è la mia opinione, le due cose non sono paragonabili. Un terremoto ha un impatto molto superiore rispetto alla vicenda di Luana Englaro. Okay. La ringrazio. Grazie. Angelo, provincia di Lucca. Buonasera, dottor Cruciani, e complimenti per la trasmissione. Senta, io intervenivo sulle questioni collegate al tipo di giornalismo che ci viene presentato sotto varie forme in questi giorni, con questa grave e drammatica sciagura che è stato il terremoto in Abruzzo. Intanto secondo me si evidenzia in maniera piuttosto lampante una carenza, diciamo così, di formazione da parte degli inviati, perché le immagini che ieri sera Striscia Notizia ci ha fatto vedere di questa giornalista che insisteva nell'andare in maniera secondo me completamente inopportuna a disturbare delle persone che riposavano in macchina, per quanto si possa riposare in macchina dopo aver subito la perdita della casa, con delle domande completamente fuori luogo, dimostrano come diciamo così, siamo carenti di quella famosa, diciamo anche ammirevole attività che sarebbe fatta dal giornalismo d'inchiesta, che invece va e sa già su cosa intervenire, cioè quali sono gli elementi, no? Senza starsi a interrogare troppo sui motivi che hanno portato, diciamo, al crollo più o meno della struttura, ma semmai, diciamo, di capire come mai nel nostro paese tutte le volte, diciamo, il giornalismo interviene sì sull'attualità, però interviene in maniera completamente in ritardo rispetto a quelli che sono. Vabbè, Angela, adesso lei sta facendo un altro discorso sul giornalismo in generale. In ore e ore di diretta si possono commettere errori clamorosi o si possono fare degli strafalcioni, succede a tutti. Certo, le cose che abbiamo ascoltato si potrebbero evitare. No, e noi comunque l'abbiamo proposte queste cose. Per farci un po' di risate sue, non per una riflessione seria in generale su che cosa è il giornalismo e dove va il giornalismo, non mi pare. No, certo, ma io difatti volevo proprio collegarmi, lei mi ha anticipato, no? Diciamo così, alla fine queste cose vanno bene, no? Appunto, se uno ci vuole fare un po', diciamo così, di risate su, no? Nel senso che, diciamo, il dramma è molto più grande, no? Sì. Ecco, io però siccome faccio anche, diciamo, come lavoro sono un tecnico della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, no? Diciamo. Ciao. E secondo me, ecco, su questa cosa qui volevo dire un attimo due cose. Sì, Angelo, però dica velocemente. Velocemente, semplicemente, che noi veramente tre volte ci dimentichiamo del principio di precauzione. Cioè il principio di precauzione, intendendo che tre volte interveniamo sempre appunto in ritardo, no? E dopo ora siamo qui a ricercare le colpe di chi ha costruito in un modo o nell'altro più che nell'altro. Noi dobbiamo ricordare che siamo un paese sismico a tutti gli effetti, in molte parti del nostro territorio, forse è arrivato il momento di darci tutti una sveglia rispetto a quello che è il nostro modo di D'accordo. Costruire l'abitazione. La ringrazio. Vincenzo da Rimini, buonasera. Salve, buonasera, ecco Gianni. Complimenti per la trasmissione. Comunque volevo fare un piccolo intervento per quanto riguarda delle volte, io ascolto tutte le sere e vedo che ogni intervento di Travaglio, Beppe Grillo, di Pietro, lei di solito non è mai d'accordo su, diciamo, su niente, però niente, mi dà un po' fastidio questa cosa, perché non perché io debba difendere Travaglio, ma si deve essere necessariamente d'accordo? No. No, carità, ecco, no. Punto, meno male. Però non vedo. Riprenderemo il discorso anche con lei, se vuole, dopo il giornale radio, anche perché oggi il signor Travaglio ci dedica un articolo sull'Unità, in parte naturalmente, dal titolo Sciacalli e Leccapiedi. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. Napoletano in Abruzzo elogia i soccorsi, l'impegno non si fermerà, poi avverte troppi crolli per leggi inapplicate, nessuno è senza colpa. La terra continua a tremare, 281 i morti, domani i funerali solenni, il sindaco dell'Aquila, tutte le case sono inagibili. Prime misure per l'emergenza, sospese bollette e mutui, indennità per gli sfollati, Berlusconi valuteremo l'Action Day con il referendum. È stato ritrovato il piccolo Michael, scomparso mercoledì in Calabria, raccovacciato in una buca a poca distanza da casa. Sta bene. Omicidio di Garlasco. L'accusa chiede di condannare Alberto Stasi a 30 anni, il massimo della pena, con il rito abbreviato. Crolla a febbraio la produzione industriale, a piccola auto è il dato peggiore dal 90 per la Banca Centrale Europea, pesa solo dal prossimo anno. Nonostante le pressioni per fermare la corsa all'atomica, l'Iran accelera e ha inaugurato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. In Abruzzo si lavora anche per salvare il patrimonio artistico, il TG3 nella Basilica dell'Aquila, durante il recupero delle spoglie di Celestino V. Titoli del TG3, copertina invece, solo copertina per Sky TG24, da tempo, da giorni ormai in diretta. Aspetta. C'hai gambe bloccate, eh? Che pugna! Che ti sa? Aspetta, che stanno qua? Va bene, erano le immagini e i suoni che vengono dalla copertina di Sky delle 19, 800 24 00 24. A me l'atteggiamento che ha il Presidente della Repubblica piace molto, non solo quando ha detto che ci sono responsabilità diffuse, che bisogna che ci sia un esame di coscienza, nessuno è senza colpa, le cose che avete ascoltato anche durante il giornale radio. Poi a un certo punto se la prende con i fotografi, perché dice: non sono venuto qui a farmi fotografare, si sente poco ma è significativo. Sapete che c'è tutta una polemica sul presenzialismo di alcuni ministri in questi giorni in Abruzzo. Sentite la sobrietà di Napolitano. Fatevi da parte e non rompete. Riascoltiamolo meglio, perché c'è quest'ultima parte. Sono venuto qui non per farmi fotografare da voi, ma per stare in mezzo alla gente. Fatevi da parte e non rompete. Era Napolitano alle 19:20. Una cosa che non c'entra niente con il terremoto e che riguarda invece l'attuale sindaco di Bologna, Sergio Cofferati. Dobbiamo riprendere ogni tanto un po' il filo delle cose prima del terremoto, lentamente, naturalmente ancora grande spazio a tutti i temi che ci sono, che sono lì sul tappeto dopo il sisma, perché insomma la situazione si prolungherà per molto tempo. Dicevo del sindaco di Bologna Cofferati, il quale aveva detto una cosa, era ottobre, non 3 anni fa, ottobre scorso. Lascio Bologna per una ragione familiare, poi credo di avere ancora un po' di energie, di avere anche voglia di continuare a occuparmi di politica. Se ci saranno delle cose che potrò fare, le farò ben volentieri. L'unica condizione che porrò in quel caso è di poter avere un'attività che non mi allontana da mio figlio e dalla mia famiglia. Un'attività che non mi allontana da mio figlio e dalla mia famiglia è a Genova la base di Cofferati, sindaco di Bologna. Adesso è candidato capolista nel nord-ovest o nel nord-est, non ricordo bene, forse in entrambi i collegi, comunque insomma capolista per il Partito Democratico, per andare dove? Al Parlamento Europeo, cioè dire a Strasburgo oppure a Bruxelles. 800 24 00 24. Riprendiamo con gli ascoltatori, riprendiamo da Rimini. Allora Vincenzo, eravamo con lui. Ecco, sì, niente, parlavamo di travaglio. A me mi sta a cuore questa cosa, perché ogni volta che fa un intervento, che anche da zero, e vedo che lei lo bacchetta sempre, non è mai d'accordo, come Pegrillo anche. Io vedo che Pegrillo anche ha un sacco di gente che lo segue, che credo che sia tutta gente stupida. No, ma mi preme fatto di travaglio. Chi ha detto questo? Travaglio. Guarda, io raramente utilizzo dei file audio o delle voci di travaglio ad anno zero, francamente, pochissime volte, raramente parlo di travaglio. Ne ho parlato ieri perché mi sembrava eccessivo quello che ha detto, e non ho mai dato dello sciacallo a travaglio, come lui oggi sostiene in una rubrica sull'Unità. È travaglio che si lascia prendere dalla penna, dando del leccapiedi a me e credo a qualcun altro del giornale. Insomma, gli insulti non vengono da parte mia, francamente. Mi sono andato a riascoltare l'inizio della trasmissione di ieri e io non ho dato dello sciacallo a nessuno. Il giorno prima avevo posto una questione che era quello: secondo voi è sciacallaggio oppure no? Ma non mi riferivo a travaglio e non c'erano i file di travaglio di ieri, gli audio di travaglio. Ieri ho semplicemente notato che l'accostamento mi sembrava esagerato, e l'attacco anche a Bertolaso mi sembrava fuori luogo. Non ho assolutamente opportuno momento, era inopportuno. Sì, ma sì. Poi senza, a parte che poi poi nella sostanza non c'era materiale per attaccare Bertolaso, ma questo è un altro discorso. Ho fatto queste osservazioni, queste critiche nei confronti di Travaglio, ma certamente non gli ho dato lo sciacallo. Ma che vuole fare? È così. Se vuole leggo questo articolo che ha scritto sull'Unità: 2 futuri premi Pulitzer, ma utilizza sempre questo linguaggio Travaglio. Sul giornale a Radio 24 mi hanno dato gentilmente dello sciacallo perché ho ricordato quali danni aggiuntivi ai terremoti avrebbero comportato il piano casa e il ponte di Messina in una delle zone più sismiche d'Europa, se sciaguratamente fossero già stati realizzati. Servi furbi sono così accecati dalla saliva delle loro lingue da non accorgersi che a liquidare il ponte, e poi dice che a liquidare il ponte in realtà è stata una parte della maggioranza, ma figuriamoci, lo so benissimo che una parte della maggioranza fa il gioco contro il ponte di Messina. Poi si dilunga in una spiegazione sul fatto che il governo, secondo Travaglio, ma questo è tutto da verificare, non avrebbe previsto norme antisismiche all'interno del piano casa e le avrebbe previste solamente quando è scoppiato il terremoto. Anche qui, insomma, bisogna vedere, bisogna verificare. Travaglio dà per assodato molte cose, ma a parte questo, dice ancora: ci sono voluti 260 morti per ripristinare la legalità. A proposito di sciacalli, vergogniamoci per loro e per i loro serbi. So, francamente so, è incommentabile una cosa di questo tipo e non me ne frega assolutamente nulla, però io non ho dato lo sciacallo a nessuno, poi Travaglio può dare del serbo a chiunque, a me non me ne importa nulla. Prego Vincenzo. Sì, però non vedo, cioè, io magari ripeto, non sarà stato magari il momento opportuno, ha scelto un momento sbagliato magari per fare certe osservazioni, però io vedo che Travaglio, tutte le sue uscite, lui dice solo, racconta dei fatti, reperisce delle notizie, cataloga delle notizie, al momento magari opportuno le fa presente. I famosi quindi... fatti di Travaglio, guardi, ne potremmo parlare a lungo, ma francamente diventerebbe una trasmissione molto noiosa, per cui... davvero annoierebbe tutti una discussione sui fatti, cosa sono i fatti, su Travaglio. Davvero sarebbe diventerebbe una trasmissione molto molto noiosa. La ringrazio Vincenzo. Davide da Padova, buonasera. Ah, buonasera. Io volevo fare un intervento, visto che purtroppo non ho da Padova, sono nato in Friuli, ho vissuto il terremoto del Friuli quando avevo 8 anni. Poi negli anni successivi ho visitato la casa dove c'era il centro operativo, credo, di Zamberletti, ed era una casa degli anni 70, credo, costruita con tecniche quindi nemmeno così moderne, che aveva resistito a un terremoto del 6,8-7 della scala Richter. Quindi credo che se una casa di quel tipo ha resistito, era nell'epicentro proprio, cioè quindi proprio vicino a Gemona. Le case che sono cadute oggi, ieri, insomma nei giorni scorsi, nella zona dell'Aquila, ovviamente, parlo ovviamente delle case cadute e costruite dopo gli anni 70, 80 o sì. 90, insomma, proprio sono state fatte con i piedi, cioè direi forse nemmeno con i piedi, nel senso che c'è stato forse un dolo molto grave nel costruirle. Ma cos'è il mio intervento? Cioè volevo fare questo intervento per dire cosa? E cioè che ci sono nel probabilmente ufficio dell'edilizia privata dell'Aquila, dei paesi ovviamente, dei comuni dove sono accaduti questi fatti, non cognomi, firme, responsabili. Ecco, direi che forse qualcosina va fatto. Sì, no, vede, io spero che si faccia qualcosa. Naturalmente alcuni nomi già stanno uscendo, per esempio di chi, della lunga fila di imprese che si sono occupate della costruzione, perché è difficile anche questo. Diverse imprese si sono occupate della costruzione dell'ospedale dell'Aquila, per esempio, come è difficile risalire anche a chi ha fatto i lavori, per esempio, della casa dello studente, sempre dell'Aquila. Che voleva aggiungere? Perché per legge dobbiamo tenere tutte le carte in archivio. Sì, certo. Quindi se mancano ci sono dei responsabili dell'archivio che devono tenere. Quindi il problema non è questo, il problema che io volevo mettere e sottoporre l'attenzione sua, comunque è un problema già che lei conosce ed è stato trattato in trasmissione, che si poi riaffaccia ogni tanto se c'è il terremoto, se succede il morto all'ospedale X, e cioè mancano i controlli. Cioè c'è un apparato che legifera, c'è un apparato che giudica, ma l'apparato che controlla dove c'è? Dov'è l'apparato che controlla? Cioè noi abbiamo un apparato di controllo praticamente inesistente. Cioè, sì, no, ma lei ha ragione, grave, naturalmente non ovunque, ma in molti casi è così. La ringrazio. C'è un problema che è anche quello degli appalti vinti a ribasso, che poi fanno scadere anche la qualità dei materiali utilizzati. Ruggero dalla provincia di Imperia. Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera, dica. Pronto? Sì, bene. Cercherò di riuscire a farmi capire più che altro per le complessità del mio intervento. È semplice ma complesso, nel senso che oggi io, girando in quel di Imperia per lavoro, mi trovavo in un bar a prendere il succo di frutta con l'aperitivo. La sento molto male, Daniele da Prato. Buonasera Daniele. Pronto? Sì, dica, lei ha la radio accesa, alta. Daniele, mi sente? Sì, mi sente? Sì, dica. Pronto? Dica, Daniele, vabbè. Io ora non ce l'ho più la radio accesa, quindi siamo a posto. Siamo a posto, dica pure. No, direi ora, mettendo democraticamente un bavaglio al Travaglio e finendola in questo modo, mi piacerebbe iniziare prendendo spunto dal discorso della Camera, quello che hanno praticamente bocciato quella cosa. E vorrei dire che non capisco come mai non si riesce bene o male a fare una legge, a rivedere la Costituzione e far sì che tutti questi deputati da 500 che sono possano diventare, non dico nemmeno 250, ma addirittura 100. Che cosa serve averne così tanti? Che cosa serve avere due camere? Io non capisco anche come mai l'opposizione si rifiuta di rivedere una Costituzione che in certi aspetti è addirittura ottocentesca. Sì, ma il punto non è solo rivedere la Costituzione, Daniele. A parole tutti sono contro il bicameralismo perfetto, il numero di parlamentari. Poi quando si deve andare sul concreto, una riforma vera da questo punto di vista, basterebbe una proposta di legge di riforma costituzionale firmata dai due gruppi principali per avviare una discussione e per porre la questione in questa legislatura, ma vedrà che la cosa non si realizzerà mai. Andiamo a sentire Fabio dalla provincia di Roma, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera. A me ha lasciato perplesso l'affermazione del capo dello Stato che ha parlato di esami di coscienza. Ecco, io volevo fare solo una riflessione su questa affermazione che mi sembra disarmante, perché qui non dobbiamo fare un esame di coscienza, bisogna chiamare la magistratura e bisogna andare a vedere chi sono i responsabili. Sì, ho capito, non ho capito la critica alle parole di Napolitano. Napolitano dice quello che un Presidente della Repubblica può dire, non è che può sostenere o affermare o dire ai 420 intervenga la magistratura. Insomma, uno deve anche conoscere quel ruolo di un Presidente della Repubblica, no Fabio? Sì, probabilmente, però allora, purtroppo qui in Italia quando si parla di problemi, ecco lì l'ospedale dell'Aquila, 30 anni per completarlo, e poi adesso mi sembra è stato sgombrato per grossi problemi strutturali, cioè voglio dire, bisogna andare a vedere chi sono i responsabili. Qui in Italia quando è pubblico non si sa mai chi deve pagare, perché poi alla fine a livello di pubblica amministrazione non viene fuori mai nessuno, non è che l'architetto che a un certo punto sta lì al comune e che ha verificato il collaudo e poi dopo lo tolgono dall'ufficio, lo mandano a fare l'archivista o spazzino. L'architetto del comune magari continua a stare lì malgrado le sue responsabilità. No, che ci sia una diffusa irresponsabilità da questo punto di vista, cioè è difficile identificare un responsabile di un accertamento, di una verifica, di un controllo, su questo non c'è dubbio Fabio, anche perché sa, un ospedale la cui costruzione è stata portata avanti per 30 anni, rintracciare poi le varie responsabilità nel corso degli anni, i collaudi che sono stati fatti, gli appalti come sono stati assegnati, si entra in un ginepraio spaventoso e probabilmente non ne usciremo mai o ne usciremo tra tantissimi anni se mai le inchieste verranno avviate. Marco da Viterbo, buonasera. Buonasera Luciano, grazie per questa grande opportunità. Senta, io vorrei partire dall'argomento che ha tirato fuori un professore l'altro giorno sulla trasmissione, non ricordo il nome, che ho apprezzato in modo particolare perché sono architetto. Ha detto, che secondo me ha centrato il punto fondamentale, ha detto che il cemento armato è un sistema rigido e quindi non è il più adatto a contrapporsi al terremoto. Dobbiamo difendersi con un sistema elastico, no? Oppure per forma. Il sistema elastico, nell'antico abbiamo la muratura, infatti le case in muratura reggono di più, no? Oppure il moderno abbiamo il legno lamellare o tutti i materiali che stanno uscendo anche in Giappone, tipo il cartone e cose del genere. Allora, perché questo è connesso sia alla rapidità... Cioè lei dice che ci sono dei nuovi materiali che vengono ormai utilizzati, che sono innovativi da questo punto di vista. Sì, li possiamo vedere, adesso abbiamo la fortuna di internet, possiamo vedere su internet come stanno ricostruendo i Giappone dopo i terremoti. Se uno dice il cartone fa ridere, no? Andiamo a vedere nel Shiguro Uban, questo architetto quarantenne, adesso avrà 45 anni, cosa sta facendo col cartone, chiaramente poi l'ha integrato con il legno lamellare, con altre cose e così via. Comunque, dico, il cemento armato va benissimo, ma per quanto riguarda magari le fondazioni, no? Andiamo nelle strutture in elevazione. Il sistema rigido non aveva fatto quel bellissimo esempio, che ben piantato al suolo gli dà una spinta e una persona cade per terra, no? Quindi ho capito, no, ma ho capito il suo ragionamento, Marco. Ci sono, non è questione tanto di norme che naturalmente vanno applicate, eccetera, eccetera, ma anche di scelta di materiali. Da questo punto di vista, lei dice siamo indietro rispetto ad altri paesi che propongono soluzioni innovative. La ringrazio, Marco. E dove andiamo? Andiamo a Milano da Enrico. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo ricollegarmi all'intervento del radioascoltatore di prima. Io mi permetto, sono un ingegnere, un po' del campo mi sono occupato. Il problema non è soltanto di costruire con nuovi materiali, ma anche di chi costruisce, nel senso che oggi come oggi non è tanto il progettista piuttosto che l'architetto, piuttosto che l'ingegnere edile chi ha in mano le scelte progettuali, ma è il costruttore. E chi ha in mano le concessioni, chi ha in mano la proprietà dei terreni. Oggi come oggi la gran massa delle imprese edili medio-piccole è fatta da personale, da persone che o sono partite dal cantiere proprio mettendo mattone su mattone, oppure da geometri, magari si sono diplomati 30 anni fa, che costruiscono con quello che sanno. Non, al di là delle normative minimali, perché la normativa deve essere sempre minimale, costruiscono come sanno, se sanno mettere mattone su mattone, metteranno sempre mattone su mattone. Cioè lei dice che la qualità dei nostri progettisti, dei nostri tecnici è scarsa? No, io dico che la qualità dei nostri progettisti è molto spesso svilita dal fatto che chi ha in mano il pallino, cioè l'impresario edile, colui che compra il progetto e vende l'immobile, non è adeguata tecnicamente come conoscenza alla competenza del progettista. Ho capito, mi scusi, però Enrico, per non confondere l'idea a chi ci sta ascoltando, che altrimenti non capisce nulla. C'è sempre un tecnico che si deve occupare di queste cose, non è che decide tutto il progettista. No, però decide però le scelte al di là, oltre le normative, perché le normative devono essere rispettate, punto. Appunto. Al di là delle normative, se sì, scegliere se costruire con un materiale innovativo, più sicuro, più tecnologicamente avanzato, oppure sì, con mattoni e cemento armato, lo fa chi paga, cioè l'impresario. Sì, e allora l'impresario sa solo costruire con cemento armato e mattone, userà solo cemento armato e mattone. Dunque, la questione qual è? La questione è che, secondo me, sarebbe necessario abilitare l'impresa edile solo se c'è un know-how diffuso, un know-how che consente di comprendere. Ho capito, come si fa? Non è che si può fare l'esame all'impresa edile, abbia pazienza Enrico, c'è un'impresa edile, un'impresa edile secondo un esame a un medico, perché non un impresario edile? Ma no, dai, su, non complichiamo la vita inutilmente, non è che un'automobile deve essere omologata. Ho capito, ma un'impresa edile ha un suo titolare che deve dare delle certificazioni, delle assicurazioni, deve avere uno staff, insomma, non è che uno si inventa un'impresa edile, cioè, succede anche quello, per carità. Mi creda, succede molto più spesso di quanto non si immagina. D'accordo. Esperienza personale. La ringrazio Enrico. Moreno da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Io chiamavo per così fare una riflessione e sentire un suo commento. E la mia riflessione è questa: io ho visto un po' le trasmissioni, soprattutto gli special dei TG, comunque anche le varie trasmissioni che hanno parlato del terremoto, e ho notato questo fatto che tutti quanti i giornalisti si concentrano sul fatto di se si poteva prevedere questo terremoto, oppure si vedono le costruzioni, anche qua abbiamo sentito i commenti di altri ascoltatori che dicevano ma dovevano essere costruiti in modo diverso perché il cemento armato poi non era buono, oppure non è un elemento che mantiene l'elasticità, cioè si va a concentrarsi a cercare magari un colpevole, oppure a vedere se era prevedibile. Non si parla però di altre cose che secondo me sono molto importanti, che l'informazione dovrebbe fare, e che ok, la cosa è successa, adesso è successa la tragedia, e persone come me, per esempio, che io vivendo a Vicenza non ho accusato assolutamente alcun problema e mi sento a disagio nel confronto di vedere al telegiornale queste persone, che deve essere devastante perdere la propria casa, i familiari eccetera. Cosa possono fare per aiutare queste persone? C'è la protezione civile che è intervenuta. Io come cittadino cosa posso fare? Non so, un versamento, oppure no, io voglio, mi prendo una settimana di ferie e vado lì, ok, ma ci si concentra poco sul come tutti noi possiamo aiutare nel nostro piccolo o nel nostro grande, chi può di più, chi può di meno. No, Moreno, mi sembra che anche questo aspetto sia stato e venga ancora sviscerato da moltissime trasmissioni. Cioè l'aspetto di come aiutare, eccetera. Non ci sono certamente solo polemiche o discussioni sui crolli, sui possibili colpevoli, sulla prevedibilità. Non c'è solo questo. Non sono d'accordo, Moreno. La ringrazio. Sempre 800 24 00 24. Cerchiamo di raccogliere la telefonata dalla provincia di Imperia con Ruggero. Mi sente, sì, Ruggero? Pronto? Eccoci qua, dica. Eccoci qua, speriamo di collegarci. Speriamo, bene. Speriamo. La mia era soltanto più che altro un po' una polemica. Contro l'informazione che l'opposizione del governo, cioè io parlo, arrivo subito al fulcro, Franceschini ha criticato il cavaliere Berlusconi per il fatto che avrebbe detto che non vuole gli aiuti delle nazioni straniere da parte di chi vuole aiutare questi poveracci terremotati. Sì, mi sembra sia stata una brevissima polemica già chiusa, Ruggero, francamente ecco. non c'è stata nessuna discussione tra maggioranza e opposizione su questo. Però, ecco, no, per chiarirlo, perché io purtroppo con il mio mestiere giro molto Italia, Nord Italia, e sento i discorsi classici da Bari, 56 milioni di commissari tecnici che siamo tutti quanti. Adesso siamo diventati anche esperti di terremoti, insomma. Bravissimo, è quello che volevo intendere. Sono tutti che stanno dando addosso a questo fatto che è arrivato le loro orecchie per quello che ha detto l'onorevole Franceschini, ecco. E chiarire un pochettino che Ma guardi, questa cosa sugli aiuti all'estero è già morta prima di iniziare, per cui non è diventata una polemica, non se ne parla, Ruggero. Franceschini ha detto sarebbe opportuno accettare aiuti dall'estero, poi Berlusconi ha parlato di alcuni aiuti che potrebbero venire dagli Stati Uniti, adesso invita alcuni stati ad adottare un monumento. Insomma, non mi sembra che la cosa, per fortuna, non è cresciuta, non è diventata una fonte di polemiche. Si sta assistendo, credo, in queste ore ad una intesa da parte di tutte le forze politiche, almeno delle più grandi, direi quasi su tutto. C'è un presenzialismo molto forte da parte del Presidente del Consiglio, oggi peraltro esaltato, tra virgolette, in un articolo di Massimo Gramellini, esaltato nel senso come modello di intervento berlusconiano, non esaltato dall'autore dell'articolo di Massimo Gramellini questa mattina sulla Stampa. Insomma, io credo che davvero in questa vicenda le polemiche, per fortuna, siano state molto, molto scarse. La ringrazio, Ruggero. Massimo da Milano, buonasera. Pronto, buonasera, sono io? Sì, certo, a lei. Buonasera. Niente, io volevo sottolineare una cosa. Lei ha mai fatto il militare, signor Cruciani? Come, scusi? Lei ha fatto il militare? Sì, ho fatto il militare. Io mi ricordo, anch'io ho fatto il militare, ho 40 anni. Io mi ricordo che quando si andava a fare i campi, si partiva al mattino e entro la sera c'era pronta la cucina, l'infermeria, c'era pronto tutto lo stretto necessario. Ora, quello che ha fatto Matrix sarà un po' invadente, perché è andata a intervistare gente che dormiva in macchina. Però il fatto stesso che c'era gente dopo 3-4 giorni che dormiva in macchina, fa non capire... era dopo 3-4 giorni, era il giorno dopo, era la prima sera del terremoto. Poi possono esserci altre persone che dormono in macchina anche oggi, credo di no, ecco. Ma era il giorno dopo il terremoto, Massimo. Allora, se era il giorno dopo, forse. Però il fatto è che ancora oggi c'è parecchia gente che non è a posto. Ma certo che non sia a posto, è normale dopo un terremoto, Massimo. Cosa vuole? Che dopo 3 giorni le case vengano ricostruite e che la gente si allegra con tutte le proprie cose, eccetera? No, però se si guarda TG1, TG2, sono tutti a posto. Ma non è vero, non è vero, Massimo. Perché bisogna cercare sempre delle... In ogni cosa bisogna cercare fonte di discussioni, e deve sempre andare tutto male. Qui non è questione di governo di centrodestra o di centrosinistra. Mi sembra di poter vedere, di capire dalle cose che leggo, dalle cose che ascolto, dalle cose che guardo. Certo, non ho nessun tipo di contatto con il territorio. Mi sembra di poter capire che in questo caso, dalle parole anche del Presidente della Repubblica, che l'intervento concreto delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, abbia prodotto dei risultati molto soddisfacenti, pur in una situazione complicata, drammatica, che è sempre in evoluzione, che può migliorare, che deve migliorare, comunque in una situazione di disagio, Massimo. A me no, ma ci mancherebbe, ma lei l'ha buttata sui governi di centrodestra, io non la butto sui governi, io la butto sulla realtà. E la realtà qual è? Che c'è purtroppo gente dopo 4-5 giorni, che non è sistemato, non è a posto. Ma no, che cosa strana questa cosa qua dopo un terremoto di questa portata. Massimo, insomma, abbia pazienza. Ma c'è gente sistemata, che significa secondo lei poi? Allora, cosa significa gente? Non c'è gente, io credo che tutti cercano di, tutte le persone impegnate cercano di occuparsi di qualsiasi persona. Ci sono persone che sono sulla costa, persone che sono dentro le tende, si cerca di dare rifugio a tutti. Naturalmente la situazione è complicata, i disagi sono molti, ma non mi pare che venga coperta qualche notizia o vengono ignorate notizie invece in cui c'è un abbandono da parte di qualcuno. Non mi pare, Massimo, la mia impressione è questa. Forse a lei forse non pare, io le ripeto, se io guardo il TG1 e il TG2, sì, è una macchina che funziona perfettamente, sono tutti quasi contenti, sono tutti a posto, tanto per finire c'è un Presidente del Consiglio che dice ai nipotini di dire alle nonne che si andrà al mare. Vabbè, insomma, si va a parare sempre Non mi sembra che corrisponda alla realtà. Cioè. Va bene, d'accordo, Massimo, secondo lei non corrisponde alla realtà? Insomma, io guardo i telegiornali, eccetera, tutti, dal primo all'ultimo, telegiornali che magari hanno una sensibilità di un certo tipo, telegiornali che hanno una sensibilità di un altro tipo, non mi pare di notare. Ripeto, i disagi sono moltissimi, ma mi sembra che l'assistenza venga data. Presidente della provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane, buonasera. Voi. Buonasera Presidente, senta, vuole rispondere a lei, a questo ascoltatore che era molto scettico sul tipo di informazione che viene fatta in questi giorni, dice troppi servizi che esaltano l'organizzazione perfetta. Io non ho questa impressione, a dire la verità, comunque. Ma io non so commentare i servizi televisivi perché purtroppo da giorni non vedo più la televisione, no. Sento poco la radio. Ma l'organizzazione sta funzionando? Guardi, allora è chiaro che ci trova tutti in una situazione di emergenza spaventosa. Questa emergenza ha trovato delle risposte. Non tutte le risposte sono state adeguate e su queste mancate risposte adeguate come enti locali stiamo premendo molto. Tipo quali sono le risposte mancate? La partenza degli aiuti è stata complessa. Vabbè, quello l'abbiamo già detto. Esatto, quindi io non ci torno su. Sì. Ma adesso la situazione qual è? Adesso la situazione è fortemente migliorata. Sì. Io ho girato oggi tutti i campi per vedere. Soprattutto le posso dire una cosa che quasi mi commuove: lo sforzo che stanno facendo da tutta Italia è veramente uno sforzo generoso. Io vedo delle persone nei campi che si stanno occupando di tutto, perché nei campi c'è di tutto, ci sono i bambini, c'è l'handicappato, c'è l'anziano malato, c'è il cardiopatico. Lo sforzo è grande, ci sono ancora dei problemi naturalmente, da quelli più banali che mancano ancora i servizi igienici, quindi bagni chimici, purtroppo. Quando stiamo con 2000 persone vi potete immaginare cosa può significare, specie nelle ore della mattina, della sera, insomma negli orari punta si crea una situazione di grande nervosismo. Alcune cose vanno ancora migliorate. La giornata difficile sono state le prime due, ora c'è una situazione che permette una vita dignitosa. Qualcuno ci parlava ieri dei lettini per i bambini, in alcuni casi mancavano. Sì, no, mancano tante cose, certo. Mancano i lettini, manca l'assistenza ai bambini, mancano tante cose. È chiaro che io non so cosa passa per la televisione, ripeto, sto troppo presa. No, ma la domanda però, non era rivolta alla televisione. Ecco, per esempio, uno dei problemi che si è creato sono le mancate risposte per le aspettative un po' esagerate che erano state prospettate. Ecco, quando all'indomani alle 2 si fa la conferenza stampa, si dice, ecco, stasera avrete 2000 tende, poi ce ne stanno 100, tra quelli che aspettavano e che hanno atteso inutilmente c'era mia madre, mia sorella, che hanno atteso ore e poi hanno detto non c'è la tenda, dormite in macchina. E questo è accaduto, un po' più di sobrietà avrebbe evitato tante tensioni, tanto nervosismo. E tante aspettative. Adesso, sì, ci sono paesi che ancora non hanno nessuna tenda. Perché cosa... La linea si è interrotta, ma la recuperiamo subito con il presidente della provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane. Torniamo agli ascoltatori. Fabio da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io vorrei intervenire in merito al suo intervento, alla notizia che lei ha dato su Cofferati. Sì. Cofferati che si ripresenta alle elezioni. Ecco, io ho creduto di cogliere una vena di ironia da parte sua, che secondo me non ci sta. Perché? Perché all'epoca quella decisione di Cofferati venne presa in un contesto familiare, non politico. E quindi immagino che nello stesso contesto familiare, dopo non so quanto tempo sia passato, un anno, le dinamiche possano cambiare. I figli crescono. Ma guardi, non c'era... No, aspetti, se mi sbaglio per carità. Sì. Però ecco, come se fosse stata una mancanza di coerenza di Cofferati, che invece a mio avviso è un politico coerente sia all'interno del suo schieramento, e spesso ne ha pagato anche il prezzo, sia nei confronti dei suoi dei cittadini che rappresenta come sindaco. Ora, ritengo sia più grave invece, parlando di elezioni europee, l'atteggiamento di chi si presenta ben sapendo che non potrà partecipare ai lavori europei perché è incompatibile. Ecco, questo poi dimostra anche un po' di... Sono diversi questi qua, queste persone che si presentano da... Perché l'Europa poi... Berlusconi, Di Pietro... Tutti. Non faccio distinzioni. No, guardi Fabio, io su Cofferati non c'era nessuna ironia. Certo è un po' bizzarro, io sono stato tra quelli che ha difeso Cofferati nelle sue polemiche con Rifondazione Comunista sulla questione della sicurezza. Secondo me alla fine è stato anche un buon sindaco, nonostante non sia molto popolare, almeno dalle impressioni che ho e da quello che mi raccontano certi amici bolognesi. Ma non è questo il punto. Credo che un po' di contraddizione però ci sia stata. La politica e il privato non possono essere distinti in questo caso. Non si può dire non faccio più il sindaco di Bologna, cioè non si può dire, lo si può dire naturalmente, ma è difficilmente giustificabile, è difficilmente, come dire, difficilmente si può rintracciare una linearità di percorso, una coerenza nel fatto che non voglio fare più il sindaco, non mi ripresento perché ho la famiglia a Genova, e dopo pochi mesi, perché di questo si tratta, a ottobre ci fu l'annuncio di Cofferati, sono passati 6 mesi, e adesso Cofferati potrebbe fare il parlamentare europeo tra Strasburgo e Bruxelles. Francamente, evidentemente la decisione di lasciare Bologna non è una decisione legata alla famiglia, è una decisione più legata, certo, fare il sindaco è un'altra cosa, per carità, fare il sindaco è più impegnativo, fare il sindaco occupa più tempo rispetto al lavoro da parlamentare europeo, probabilmente c'è questo, c'è... giorni a settimana perché poi no, ma certo, io non c'è dubbio, guardi, però insomma è un po' una dimostrazione del fatto che fare il parlamentare europeo è una passeggiata, cioè, questa vicenda forse insegna questo, no Fabio? Io ritengo che, come al di là del caso Cofferati, la dimostrazione è che fare il sindaco bisogna farsi un mazzo così, fare il parlamentare europeo è un po' una mezza vacanza. La politica italiana da sempre abbia preso, diciamo, alla leggera la partecipazione ai lavori europei, perché poi lì si scontano determinate decisioni e che poi influiscono direttamente ormai, cioè non siamo più... Ma io sono molto dubbioso sull'utilità del Parlamento europeo e ripeto, queste vicende me lo dimostrano sempre di più. La ringrazio Fabio per questa sua telefonata. Andiamo a Firenze da Luigi. Ciao e buonasera. Allora, un saluto a tutti. Allora, la mia domanda era questo, parlando prima di Cofferati, meglio praticamente una mente come Cofferati al Parlamento Europeo, anche se ha preso la scelta che ha preso, che un Borghezio come leghista. Però il mio discorso era questo. Lei preferisce certo. Cofferati a Borghezio, però qui certo, siamo nel campo delle così delle. Per quanto riguarda quello che è successo praticamente in Abruzzo, io praticamente sono di origine calabrese e quindi praticamente so la criticità che c'è in quei posti. Io vi dico praticamente che abito in un piccolo paesino di 20.000 persone dove non esiste piano regolatore, dove ognuno praticamente ha costruito negli anni perché giustamente doveva costruire una casa con le proprie forze senza piani. Quindi praticamente da quello che si sta sentendo, io direi praticamente anche dopo praticamente il caso Abruzzo e tanti altri, che il nostro governo dovrebbe vedere laddove, che sarebbe da Roma in giù, c'è le criticità, perché praticamente se vi è qualsiasi scossa in quei posti, signori, lì praticamente si rischia veramente di fare dei danni. Oltretutto praticamente ci sono state delle inchieste fatte adesso per quanto riguarda quello che può succedere. Poi l'ultima cosa e finisco. Sì. Per quanto riguarda le case che ci vendono, lo scandalo è questo: ci vendono delle case tipo praticamente a Firenze, qui un metro quadro costa dai 3.000 ai 4.000 euro. Il discorso è questo: ci vendono delle case non sicure, non tutti per fortuna, però la maggior parte. Chi lo sostiene? Ha detto praticamente che quando vanno ai condomini e vanno a ristrutturare, lei va a comprare una casa in un condominio. Ma chi lo sostiene che sono poco sicure queste case? Luigi, mi scusi. Ma chi tutti? Chi? Lo sostengono tutti. Che non sono sicure. Comunque, le case che si comprano nelle città italiane non sono sicure. Quelle così, tu dagli anni 60. Ma chi lo poi dice? Bisogna vedere le case, chi le ha costruite, come, quando. Lei si faccia un giro da queste parti e comunque vedrà. È così, vedo i palazzi e decido. Questo non è sicuro. Questo non è sicuro. Comunque, praticamente, quello che volevo dire. Senta, ci sono i TG. Bene, 21 minuto, 800 24 00 24. Abbiamo il TG5? Sentiamo. Salgono a 281 le vittime del terremoto, tra i morti 20 bambini. Le scosse continuano, il fronte del sisma si sposta a nord. Il governo rinvia le scadenze fiscali per i terremotati e sospende le bollette, previsti 400 euro a famiglia. Dopo Pasqua il decreto sui fondi. Serviranno diversi miliardi, dice Berlusconi, ma li troveremo. Il capo dello Stato ai terremotati: non vi dimenticherò. Da Napolitano elogia i soccorritori e all'operato del governo. Sui crolli dice serve un esame di coscienza. Nel Giovedì Santo il Papa rinnova il rito della lavanda dei piedi e ricorda le tante vittime. Domani il Cardinal Bertone celebrerà i funerali di Stato in Abruzzo. Ritrovato dall'unità cinofila, il bimbo di 5 anni sparito nel Cosentino, era andato a cercare il padre nei campi e si era perso. Alberto Stasi ha ucciso la fidanzata Chiara Poggi con crudeltà. L'accusa chiede 30 anni, nessuna attenuante. La BCE nel 2010 una graduale ripresa, l'Istat evidenzia il crollo nell'auto a febbraio, ma i dati di marzo indicano un forte recupero, presto nuovi controlli antievasori. Erano i titoli del TG5, copertina invece per il TG1. Deve esserci un esame di coscienza che non conosce assolutamente coloriture e discriminanti politiche. Va bene, sentiamo anche la 7, stessa cosa, copertina. Io voglio esprimere anche la mia ammirazione per la popolazione, perché la dignità che ho potuto cogliere, grande dignità e diciamo pure anche grande spirito di adattamento. Le parole del Presidente della Repubblica, sentiamo Sky TG24 su questo. Dire piena continuità non deve essere, perché questo è l'interrogativo un po' angoscioso che ho sentito incontrando tante persone, ma non è che poi vi dimenticate, non è che dopo il primo momento poi trascurerete il da farsi qui in Abruzzo. Bene, se io posso prendere un impegno, e so di poterlo prendere anche a nome del governo e di tutte le istituzioni, è precisamente questo. Bisognerà continuare con lo stesso slancio in condizioni diverse, con lo stesso grado di impegno, di mobilitazione, anche naturalmente di risorse finanziarie. Questo è il Presidente della Repubblica, alcuni dei passaggi dell'intervento di oggi. Rosanna, provincia di Cremona. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Prima di tutto un abbraccio forte forte a tutti gli aquilani. Poi ho telefonato in quanto io non concordo con lei quando dice, sostiene che insomma il discorso del nostro Presidente. Il nostro Presidente è un uomo estremamente intelligente, però è ora di cambiare e forse è giusto che l'aiutiamo a cambiare. Perché il continuare a dire che la colpa è di tutti e di nessuno. Sentiamolo su questo, sentiamolo su questo. Che di solito diciamo non è molto incline a fare affermazioni del genere, dire nessuno è senza colpa, e credo che in questo caso questo rappresentante dell'opposizione avesse ragione. Non si tratta di liberarsi da ogni possibile responsabilità, si tratta di vedere effettivamente come sia potuto accadere che norme di prevenzione che erano state a suo tempo identificate, studiate e anche tradotte in legge non abbiano avuto l'attuazione indispensabile. Questo Napolitano, cos'è che non la convince Rosanna di questo ragionamento? Non mi convince il solito giro di parole. Sono vicino a voi altri, al popolo italiano, a questi nostri fratelli che stanno soffrendo e chissà che paure che hanno avuto, non riesco neanche a immaginare. E poi diventare ancora l'uomo freddo, lontano, che sta dalla parte di chi in pratica non capisce e non riesce neanche a comprendere la sofferenza, ecco. Non ho capito, mi scusi. Un Presidente della Repubblica dovrebbe essere come un padre che vuol bene i propri figli. E allora? Allora, se lui va da queste persone e dice io non vi abbandono e poi nel suo giro di parole non c'è la persona responsabile, non ci sono. Non è che la deve, trovare Napolitano, a parte che non ha detto che non ci sono responsabili, ma anzi ha detto che ci sono responsabilità diffuse, ma non è che la deve trovare Napolitano il responsabile. Qui bisogna... serve questo discorso. Ma come non serve? Che significa? I presidenti della Repubblica devono rispettare il loro ruolo, non è che possono inventarsi un ruolo diverso, il ruolo dei, non so, dei giudici oppure quello degli investigatori. Cioè, il Presidente della Repubblica è andato là a dire alcune cose che secondo me sono molto sensate, sono molto giuste, sono molto corrette e io credo che serva anche questo. La ringrazio Rosanna di questo intervento. Marco da Milano. Pronto? Sì, buonasera Marco, dica. Salve, ascolti, volevo portare una piccola polemica, mi spiace di portarla in casa sua, dunque riguarda un po' l'informazione. In questi giorni ho visto molti telegiornali, chiaramente ho sentito molti certo. servizi in TV e devo dire che purtroppo ho avuto l'ennesima riconferma che molto spesso alcuni suoi colleghi prima di fare degli interventi non si documentano, comunque dicono delle cose che alla fine creano parecchia confusione. Per esempio? Faccio un paio di esempi, uno che riguarda il terremoto. Una giornalista inviata di Ballarò a un certo punto ha alzato l'indice dicendo non sono stati fatti i controlli periodici nell'ospedale, creando confusione perché di fatto non ha senso parlare di controlli periodici per quanto riguarda le strutture statiche, è proprio diciamo, è un non senso, quindi magari certo. le cose da dire erano altre. E quindi ha creato poi un po' di confusione nelle persone che stavano ascoltando. No, è che si suscita, spesso si vuole suscitare l'indignazione, no? Esattamente, però il problema è che, ripeto, ci sono tantissimi argomenti che potrebbero essere sollevati per suscitare indignazione e comunque più pertinenti. Un altro esempio concentrato nulla con il terremoto, un paio di settimane fa si dice la notizia, fa un intervento meritorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, io mi occupo di quello per lavoro, e fa vedere delle riprese dove c'erano dei muratori che erano in lavorare in quota, in un'impalcatura che comunque era a norma, dicendo che stavano lavorando in rischio e fuori norma perché non avevano le impalcature di sicurezza. Ora, siccome adesso non scendo nei dettagli tecnici, però l'impalcatura è un dispositivo di protezione collettiva che è preferibile a quello individuale, che sarebbe l'imbracatura, sì. cose che una esclude l'altra. Risultato qual è stato? Che nei giorni successivi ho ricevuto moltissime telefonate da parte di aziende che seguo dicendo ma è cambiata la norma, ma perché, cos'è successo, creando comunque confusione. No, ma guardi, lei ha ragione, allora... Marco, su molte cose si sparano e si dicono delle castronerie incredibili, magari le diciamo anche noi, bisogna sempre stare attenti prima di accusare qualcuno o di puntare l'indice contro qualcuno. Sono le 20:09 minuti. Credo che abbiamo ristabilito il contatto con, per concludere il discorso, col presidente della provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane, per farle presidente un'altra domanda che riguarda una polemica che lei ha innescato oggi con alcune dichiarazioni fatte a Repubblica. 10 ministri in 3 giorni, incredibile, adesso finalmente si ricordano di noi, vengono perché ci sono le elezioni europee. Ci può spiegare quali sono i casi più clamorosi secondo lei? Perché io credo che in situazioni analoghe, magari sbagliando, i ministri, in particolare quelli interessati, cioè La Russa in questo caso, Matteoli, i corrispondenti, i precedenti ministri, siano sempre intervenuti sul territorio per una visita ai propri uomini, per sondare e per verificare la situazione. Cos'è che invece in questo caso le è suonato male? Beh, no, guardi, intanto Repubblica ha fatto una piccolo errore. 10 ministri solo ieri, solo nella giornata di ieri. Sì. C'è stato un momento in cui c'erano contemporaneamente Tremonti, Calderoli, Bossi, poi c'era il sindaco di Roma Alemanno, era appena andato via il presidente del Consiglio. Cioè il tema non è che non vogliamo i ministri, noi li vogliamo. Sì. E li vogliamo tantissimo. Cioè, però lei dice troppe passerelle. No, vogliamo che dialogano con noi, dialogano col territorio, capiscono le esigenze, le riportano ai loro uffici e poi ci danno delle risposte. Mi è capitato una cosa terribile, perciò ero molto irritata. Io ieri mattina alle 7:30 ero al campo di Onna per controllare se avevano portato i bagni chimici che il giorno prima non c'erano. O nel mio paese, lì ho perso molti parenti e 2 nipoti giovanissime. Ho visto arrivare un elicottero, ho detto oddio, meno male, arrivano i bagni chimici, arriva qualcosa. No, è arrivato il ministro Zaia. Il ministro Zaia è andato velocissimamente a fare un'intervista della RAI e poi è ripartito. Quindi voglio dire, la poteva fare a Roma l'intervista. Io ho molto rispetto per le istituzioni perché sono a capo di un'istituzione. Sì. E li voglio ministri, voglio il Presidente del Consiglio che sia qui con noi. Domani torna e io ne sono felice perché domani vivremo un dramma, i funerali. Però ecco, un po' di più di garbo. Oggi è venuta solo la Gelmini oltre che il Presidente del Consiglio, oltre che il Presidente della Repubblica. Con la Gelmini ci siamo soffermati per alcune decine di minuti su un tema concreto, far ripartire le scuole. Certo, quindi certo. Noi li vogliamo i ministri, ma per esporgli i problemi. È inutile che vanno tutti in giro oppure vengono a fare l'intervista e poi se ne rivanno via. Ecco, veramente faccio appello al rispetto per questa gente. E noi raccogliamo questo appello perché ma lei ha spiegato bene. Spesso i titoli dei giornali sintetizzano ed è giusto aver spiegato. Ci sono esponenti politici di tutti i livelli, centrosinistra e centrodestra, ministri che sono venuti in Abruzzo, forse è un eccesso, anzi sicuramente un eccesso quando non c'è qualcosa di concreto da fare o quando, come nel caso della Gelmini oggi o di altri ministri o di altri politici, insomma c'è una missione vera e propria da compiere concretamente in Abruzzo. La ringrazio presidente, buona serata. Benissimo, grazie a voi, buona serata. Andiamo all'Aquila, Alessandro, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Allora, io vorrei fare un intervento di questo genere, nel senso, dicendovi, io sono un aquilano, non ho vissuto la prima scossa perché ero fuori al lavoro a Modena e sono rientrato subito, alle 9:30 ero già all'Aquila a cercare mio padre, a cercare mia zia di 80 anni. E volevo dirvi, ragazzi, non è il momento di fare le polemiche le facciamo dopo, adesso dobbiamo ricostruire questa città, dopo vediamo quello che succede. Non accetto polemiche da persone che sono, chiamano da Treviso, non so da dove, il signor Fabrizio, credo, che diceva la gente ha dormito 3 giorni, no, non è così, io ho visto tutto sommato funzionava, le polemiche posso accettarle dalla signora Pezzopane, che comunque sia una persona degna veramente di rispetto, anche se di fede politica diversa dalla mia, però va bene, quello ci sta, l'accetto dagli aquilani, ma in questo momento da altre persone che non conoscono la realtà non è il momento di fare polemiche, è il momento di starci vicino, di far continuare a sentire il calore che stiamo sentendo. No, certo, lei ha ragione, Alessandro, la discussione naturalmente su quello che sta avvenendo è legittima, le persone si pongono delle domande, si fanno e si interrogano su quello che sta accadendo, però io sono d'accordo con lei che non si può giudicare dall'esterno se gli aiuti stanno andando bene o no. come si fa a dire, semplicemente perché i servizi televisivi esaltano la macchina organizzativa e lo sforzo dei vigili del fuoco. Non è così. Io credo che ci sono diversi indicatori che segnalano che cosa? Segnalano che lentamente, con qualche disguido che è normale, sia una macchina che sta funzionando o no? Certo, ragazzi, abbiamo perso quasi tutte le case, sono tutte danneggiate, anche casa mia che è stata costruita nel 2003, che comunque sia è una villetta resistente, ha avuto dei danni, non ci dormiamo, adesso noi stiamo a dormire al mare, stiamo, e comunque tutti abbiamo avuto dei danni, quindi ci saranno, non so, secondo me i sfollati sono anche di più, perché nessuno si fida più, L'Aquila è una città deserta, è un fantasma, sembravamo lunedì, sembravamo gli zombie che ci aggiravamo, comunque un pasto l'abbiamo trovato, è chiaro che non ce l'hanno portato sotto casa, ma i punti di raccolta erano vicini, io abito a Sant'Elia, cioè avevo due punti di raccolta, in distanza di un chilometro. Poi lei dove si trova adesso? La sua famiglia dove si trova? La mia famiglia si trova a Tortoreto Lido, tra l'altro mia mamma e mio padre in albergo, mia zia e ottantenne ed io in un appartamentino molto carino con della gente splendida, disponibilissima. Dunque per fortuna sono sopravvissuti tutti, per quello sì, che lo riguarda. Sì, noi siamo stati fortunati, purtroppo abbiamo perso dei carissimi amici, l'ho scoperto questa mattina, l'ho scoperto, infatti sto rientrando all'Aquila perché domani ci saranno i funerali ed è una cosa tristissima, quindi... La vostra casa? La nostra casa, come tutte le altre del nostro quartiere, ha resistito, abbiamo dei danni, però possiamo ritenerci fortunati, ma comunque sia con delle grandi crepe, da capire bene adesso queste crepe di che tipo, di che entità sono, e comunque nessuno torna a casa. E poi la terra continua a tremare, una cosa incredibile. La ringrazio molto per questa telefonata, grazie ad Alessandro che ci chiama dall'Aquila, in viaggio verso l'Aquila da quello che sento, no Alessandro? Solo una cosa di testimonianza, sì. di noi abruzzesi, soltanto mia zia, 80 anni, ha fatto tutte le scale, dal quinto piano è scesa, dopo mi ha guardato, l'ha abbracciata e mi ha detto: Alessandro, ma io ho lasciato tutto quanto dentro casa, devo pagare le bollette. Per fortuna non avrà questo problema. 80 anni, abruzzese, gente forte, è vero? Assolutamente, tosta, soprattutto gli aquilani. Un saluto agli aquilani, a tutti quanti. Grazie. Adriano da Teramo, sempre dall'Abruzzo. Buonasera Adriano. Buonasera, mi sente? Sì, sì, la sento, mi dica pure. Io volevo intervenire veramente ieri sera. Innanzitutto buonasera a lei e la seguo quando posso, quando viaggio la seguo sempre. Grazie, prego. Dicevo che anche noi qui subiamo il terremoto, anche se non abbiamo subito danni, però le scosse sono frequenti, anche perché in linea d'aria siamo vicinissimi all'Aquila. Una cosa, per quanto riguarda l'ospedale, io ci sono stato poco tempo fa, dicevo, alla sua collega che ha ricevuto la mia telefonata, avevo notato questa struttura che aveva il cemento, dicevo, siccome un ospedale sapevo che era nuovo, però vedevo che il cemento era molto consumato, molto levigato, la struttura esterna, i cornicioni. Ci ho portato mio figlio per dei problemi, l'ultima volta siamo stati il 12 di marzo io e mia moglie con il bambino. Poi ho notato che, a differenza dell'ospedale nostro di Teramo, che sono 7 piani, dico, questo dell'Aquila è basso, l'avranno fatto appunto per il sisma, ma dopo vedo che succede che al 90% non è agibile, dico, è successo qualcosa. Su questo, francamente, un ospedale che non... C'è la sua impressione da utente di quell'ospedale, ma è l'impressione di molti utenti dell'ospedale, che ci fosse qualcosa ma che... Più che non andasse, per carità, non è che io faccio il tecnico, anche se sono stato nell'edilizia, nel senso perché ho costruito casa dei miei, insomma, ho aiutato. E allora qual è l'impressione che ha avuto? L'impressione è che la struttura già era vecchia, nonostante che io avevo saputo che l'ospedale è stato inaugurato pochi anni prima. Sì, da una decina di anni fa. Appunto, anche gli infissi, il tipo di infissi, dico, questo è un ospedale, mi sembra molto bene, non è un ospedale moderno. Per esempio quello nostro di Teramo mi sembra molto più moderno. E poi su un'altra cosa volevo dire, ieri sera molti dicevano in America non succedono queste cose, in Giappone non succedono. Ma io innanzitutto abbiamo tutto un altro tipo di materiale noi per costruire, poi sono città molto vecchie le nostre, guardiamo l'Aquila per esempio che è vecchia. Ma infatti ieri l'architetto, poi Stefano Boeri, ci ha spiegato bene come naturalmente un paragone si può fare a livello di cultura della prevenzione e tutto quello che volete, però sono situazioni completamente diverse e imparagonabili, diciamo, no? Però dopo subiscono delle tragedie di diversa maniera, nel senso, in California mi sembra che è stato due anni fa che si è bruciato tutto Hollywood, là le case di legno, pure ci sono stati pure diversi sì, morti. No, certo. Oppure vediamo Adriano, anche... la... La ringrazio, buona serata. Gabriele da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io ho sentito, non so se l'argomento è stato trattato nella chiave di lettura che vorrei dare io, perché ero in macchina quando ho prenotato la chiamata, poi ormai pensavo non mi chiamaste più. Io volevo solo esprimere questa mia sensazione che ho avuto, perché ho seguito ininterrottamente tutta la fase con delle dirette, dell'evoluzione, delle scosse, dei soccorsi, quindi ininterrottamente fino a tarda notte, finché sì, il sonno mi assisteva, e ho avuto proprio una sensazione, e quindi propongo una lettura in positivo, perché ho sentito tante critiche con dei distinguo, con dei particolarismi che a un certo punto mi hanno fatto male, così come cittadino, perché per la prima volta mi sono sentito orgoglioso di essere un italiano con una presenza di uno Stato che ha dimostrato un'efficienza, un'efficacia nei propri interventi. E certo, i problemi ci sono, gli aspetti di colore dei giornalisti lasciamoli fare a striscia, giustamente, perché fanno il loro lavoro e quindi stigmatizzano alcune situazioni che hanno anche degli aspetti divertenti, però io credo che come cittadini italiani dobbiamo essere riconoscenti a tutti quelli che hanno lavorato a questo grave evento. Sì, tutti quelli che ancora stanno lavorando. E stanno lavorando. E poi no, ma io sono d'accordo con lei, ma lo hanno scritto in tanti, addirittura Lucia Annunziati in un articolo pubblicato l'altro giorno, solo perché ha detto lo Stato c'è, finalmente una volta tanto lo Stato si è dimostrato presente, e si è beccata oggi da un lettore della Stampa l'accusa di filo berlusconismo. Figuriamoci un po', questo nostro paese è veramente bizzarro. La ringrazio. Maurizio da Parma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, la seguo spesso quando riesco. Volevo solo fare il punto su una questione. Io sono un tecnico del calcestruzzo, faccio parte di una commissione tecnologica nazionale che si interessa di dialogare col Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione delle nuove norme. Volevo chiarire, perché ho sentito dire tante cose, materiali, alternative, eccetera, di quelli che sono i veri motivi che hanno portato alla caduta di alcuni palazzi che in teoria avrebbero dovuto essere costruiti con sistemi antisismici, ed è uscito soltanto nella trasmissione di ieri sera di Exit per un breve periodo con la signora D'Amico. Il problema vero non sono i materiali, il problema vero sono i controlli, nel senso che quando lei costruisce una casa o fa un palazzo, un ospedale, c'è una persona che è l'ingegnere, il cosiddetto direttore dei lavori, che ha il compito di venire a verificare che effettivamente tutto venga fatto come scritto sul progetto. Cosa succede? Che in Italia, questo è un tema che viene spesso dibattuto nei convegni con gli ingegneri eccetera di categoria, questo avviene soltanto nelle grandi opere. In particolare mi rammarica evidentemente che nell'ospedale del quale si parlava poc'anzi questo evidentemente non è stato fatto, perché nella stragrande maggioranza delle situazioni il direttore dei lavori spesso in cantiere nemmeno va, poiché si paga l'ingegnere perché faccia il progetto, faccia i calcoli del calcestruzzo e poi si va in fiducia sul fatto che lui controlli. Ad esempio all'estero, perché certe cose non accadono? Io costruisco un'attività, costruisco in Francia viene messo un organo dallo Stato che è il cosiddetto bureau di controllo, cioè l'ufficio del controllo, che è un elemento terzo indipendente dall'impresa di costruzioni e dal progettista che è il direttore dei lavori, che controlla il fatto che effettivamente tutto venga fatto secondo i criteri che sono stati prescritti dall'ingegnere nel progetto. In Italia purtroppo cosa succede? Che quando si va in cantiere, e la classica cosa è questa, il calcestruzzo costa tanto più caro quanto più è liquido, per intenderci, quanto più è fluido e facile da mettere in opera. Questo si può fare inserendo degli additivi chimici che hanno un costo, l'acqua invece non costa niente a nessuno. Però purtroppo nel calcestruzzo maggiore il quantitativo d'acqua, minore la resistenza che il calcestruzzo sviluppa, quindi tanta più acqua si mette in un calcestruzzo per fare una casa, per andare veloci, per essere più comodi a lavorare, tanto meno sarà la resistenza. Oltre a questo ovviamente ci sono tutti quelli che sono le parti tecniche relative alle reti saldate. Ho capito Maurizio, voglio sapere da lei, secondo il suo parere, secondo la sua esperienza, il modo di fare il calcestruzzo in Italia qual è? Noi dottore, si va quasi sempre a risparmio? Esatto, noi dottore siamo fermi dal 2005 e prima da 10 anni prima stiamo aspettando la nuova norma che già il governo Prodi e i governi successivi hanno posticipato. L'ultima volta doveva entrare in vigore l'anno scorso, è stata posticipata ancora una volta nel decreto mille proroghe. Berlusconi ha detto l'altro giorno: farò di tutto affinché questa norma non venga più slittata. Questa norma cosa porta? Uno, il direttore dei lavori è obbligato ad andare in cantiere. Due, i produttori di calcestruzzo non andranno tutti bene, ma ci sarà un ispettore del Ministero dei Lavori Pubblici che andrà in tutti gli impianti d'Italia a vedere se fanno le cose come vanno fatte oppure no. Tre, la responsabilità del direttore lavori sarà integrale, cioè fino adesso un ingegnere dice: io sono da solo, ho 10 cantieri, non posso andare in tutti i 10 cantieri. Dopo questo testo che verrà approvato sarà: se tu ingegnere non puoi andare in 10 cantieri, o riduci i cantieri che ti sei assorbito, oppure assumi che ti posso seguire. Sì, ne parlava questa mattina un articolo di Carlo Bonini su Repubblica. Ciò nonostante, comunque, tu ingegnere, la tua responsabilità, anche se avrai una persona da te che ti sostituisce, l'avrai. Ma speriamo che queste norme entrino in vigore presto e non si vada più in proroga, no? Maurizio? Ad oggi si va il 30 giugno 2010. Sì, la ringrazio molto. Fra poco vi leggo un articolo molto bello uscito questa mattina sul Corriere della Sera, firma di Beppe Severnini, sulle elezioni europee, sulla serietà di queste elezioni europee, sul modo in cui i politici italiani interpretano e affrontano queste elezioni europee. Intanto Augusto, provincia di Terni, eccoci qui. Augusto, buonasera. Pronto? Dica Augusto. Sì, buonasera. Allora, io vorrei portare la mia esperienza personale, perché credo che sia assolutamente importante in merito a quello che è successo all'Aquila, non come cause ma come parallelismo. Mi spiego meglio. Io sono in Umbria, quindi una zona che ha vissuto dei periodi veramente brutti per il terremoto. Sono in Umbria da poco, perché sono in Umbria dal 2001. Cosa mi è accaduto? Di comprare un immobile nelle vicinanze del comune di Narni. Questo immobile mi sembrava costruito correttamente, insomma, e quindi mi sono fidato della ditta costruttrice e ci sono andato a abitare con la mia famiglia. Sì. Con le prime piogge molto forti che ci furono nel 2004, che portarono a una primavera piuttosto bagnata, cominciai a notare che il terreno intorno alla casa franava, ma franava in maniera importante, con dislivelli anche di 2 metri. Questo ha significato per me iniziare una storia infinita, piena di insoddisfazioni, piena di mancanza di assistenza da tutte e da tutti, finché ho dovuto fare io, di mia iniziativa, con i miei soldi, una causa che non finisce più, perché gli enti locali non hanno voluto sentire ragioni, benché fosse evidente che a fronte di un progetto, a fronte di una relazione geotecnica dove si parlava di territorio soggetto a frane e terremoti, dove si parlava di palificazioni per contenimento, avevano dato il permesso di costruire. Hanno dato il permesso per costruire e nessuno ha verificato poi. Questo è l'assurdo, che i comuni, io non capisco, un comune se dà le licenze, se vuole l'ICI, se vuole le tasse, non verifica nulla, si verifica solo il progetto. E pensi anche questo, ma non voglio far lunga. La relazione geotecnica presentata al comune di Narni è difforme, completamente diversa da quella presentata alla provincia di Terni, completamente opposta. Quindi anche Terni non è intervenuta, se non per il collaudo per il cemento armato, che per fortuna quello c'è. Io so solo che ogni volta che c'è una scossa laggiù mi arriva fino a qui, e lo dico con sincerità, perché io ho mandato via mia moglie e mia figlia, perché ho veramente terrore che succeda qualcosa, che sistematicamente sento la casa muoversi. Beh certo, soprattutto se è costruita su un terreno franoso. Il terreno è franoso, nessuno, le dico nessuno, si è mosso a un minimo di serietà e dire: qui c'è una corresponsabilità, perché dovevamo fare attenzione. Pensi che questa zona, che è una zona residenziale, io l'ho scoperto poi, le altre case che sono qui intorno, la maggior parte sono state tutte palificate privatamente, perché purtroppo sono passati altri per la mia stessa situazione, per gli stessi identici motivi. La mia causa si è conclusa con una forzatura, una transazione che mi porta, sì, da un lato ad aver avuto ragione, ma molto molto relativa, per tutte le spese che comunque ho dovuto sostenere, e anche quelle legali a carico mio. Certo, certo. Augusto, ecco, la ringrazio. Questa è una prova della legge italiana. Non capisco proprio di che cosa stiamo parlando. Cioè, quei poveracci laggiù, è moltiplicato 1000 quello che è successo a un singolo privato. Mi perdoni se... No, ma lei ha fatto bene a raccontarci quello che le è accaduto a Narni, provincia di Terni. Siamo in collegamento con Luca D'Innocenzo, che è il presidente dell'ADSU, se non sbaglio. Sì, che è il gestore della Casa dello Studente. Stiamo, tra l'altro, su Sky c'è un servizio sulla visita del ministro Gelmini, 16 milioni per ricostruire la Casa dello Studente. La Casa dello Studente è uno degli è uno, come dire, dei simboli di quello che è accaduto. Purtroppo sono morti 7 universitari. Da quello che sappiamo, da quello che leggiamo sui giornali, Di Nocenzo è stata sempre dichiarata a norme, così, e questo è incredibile. Sì, certo, perché quella casa dello studente nasce negli anni 60 come un edificio, diciamo, per altri usi. Nei primi anni 70 diventa casa dello studente delle allora opere universitarie antistatali, poi passa negli anni 80 con lo scioglimento delle opere e con le prese delle funzioni delle regioni, che erano istituite da poco, alla regione. Da allora è patrimonio della regione, il gestore è cambiato negli anni in base alle leggi regionali, ma quella è una casa dello studente che è a norma, e questa frase è una frase che dentro di sé ha il vero, probabilmente il vero problema. Cioè, perché, mi spieghi, dire che è a norma significa che è a norma con le normative che c'erano all'epoca, naturalmente, con le regole. Dire che è a norma significa che non significa nulla, cioè significa che è stata costruita con le regole di allora. Le regole del 74 erano regole diverse, ma che non prevedevano nulla per gli edifici precedenti. Non solo, una casa dello studente, come tutti gli alloggi pubblici, come gli alloggi di pubblica utilità, persino insomma quelli di funzione alberghiera, ha tutte le normative residenziali, come una residenzialità privata sostanzialmente. Sì. Sostanzialmente come una residenzialità privata. E lì probabilmente bisogna interrogarsi, anche in questo momento di assoluta tragedia, bisogna però provare ad interrogarsi su due cose. La prima riguarda quella parola, norma. Cos'è la norma per edifici pubblici, per edifici che ospitano centinaia di persone? E oggi quella norma è la stessa perché gli edifici che ospitano le famiglie. Ovviamente è una tragedia in entrambi i casi, e allora bisogna chiedersi: gli edifici nati prima del 74, di natura residenziale, privati o pubblici che siano, avrebbero bisogno forse di una diversa norma che li collaudi di nuovo? Ecco, a proposito, a proposito di collaudi e di controlli, ma in tutti questi anni, da quando è passata sotto la gestione della, diciamo, della scuola, fondamentalmente della casa dello studente, dalle regioni, poi è passata sotto la supervisione, lei mi ricordava, di Innocenzo, di chi? Guardi, la regione ne è il proprietario dagli anni 80. Sì. Negli enti gestori sono stati per un periodo un comitato di gestione che è passato in mano al comune, poi nel 94 la legge regionale ha dato incomodato d'uso all'azienda nascente le strutture patrimoniali della regione, ma gli elementi strutturali sono rimasti sempre nelle mani della regione. In tutti questi anni c'è qualcuno che ha fatto i controlli sulla staticità, sulle norme antisismiche, sul tipo di materiale, insomma controlli sulla struttura, sono stati fatti oppure no? Allora, ci sono le normali controlli che vanno fatti, diciamo, costantemente e periodicamente, quelli, per esempio, la certificazione dei vigili del fuoco, che per esempio prevede e dà l'agibilità in termini anche delle uscite d'emergenza, delle scale d'emergenza, e questo è sempre stato fatto naturalmente in tutti i tempi. In più, nel 98 ci sono stati lavori allora decisi dall'ente gestore di allora e dalla Regione Abruzzo, e appaltati dalla Regione Abruzzo sostanzialmente, lavori di cosiddetto restauro e manutenzione conservativa fino al 2001, lavori che ha portato la casa dello studente a essere chiusa, lavori che furono chiesti dagli studenti per avere camere da 2 invece che da 4, per avere bagni. Ecco, però io quello che le voglio chiedere, Innocenzo, lei si è dato una spiegazione di questo crollo? Guardi, qui ci sono due cose. Una era quella, la seconda che volevo dirle prima. C'è un punto nevralgico che secondo me andrà discusso, indagato e verificato in questa città nei limiti di quello che è possibile in una fase così tragica, che è quella zona. Via 20 Settembre è il bombardamento dell'Aquila. Ci sono 6 edifici completamente ridotti a macerie e altri 4 edifici, fra cui la casa dello studente, che hanno avuto cedimenti strutturali. probabilmente, io parlo non da tecnico da questo punto di vista, ma da chi ha passato 70 ore in mezzo alle macerie in quella via, via, voi avrete sentito a livello nazionale i nomi di via Sant'Andrea, via Campo di Fossa, certo. sono tutte traverse di via 20 Settembre, quindi il vero problema è che forse quella zona in termini geologici, in termini è più sensibile in termini di microzonizzazione sismica, era una zona non adeguata a essere residenziale. O ha problemi strutturali sottoterra, questo è un punto che forse la città dell'Aquila dovrebbe porsi, certo. Il secondo punto invece, il secondo punto è un, come dire, va ricercato con dovizia, e riguarda la costruzione di quell'edificio, nel senso che bisogna capire ovviamente se quell'edificio è stato costruito bene. Questo è un punto difficile in questa fase, ovviamente, dopo 40 anni da ricostruire, che non impossibile, perché comunque nel 65 probabilmente ci sono le carte al genio civile. Insomma, allora però si può dire tranquillamente ad Innocenzo che un edificio del 65 in quella zona forse era meglio non adibirlo a casa dello studente o comunque a abitazione residenziale, oppure no? Non lo so, col senno di poi. Col senno di poi, certo. È un dramma, perché il dramma è col senno di poi, perché quella zona non ha mai avuto particolari problemi. Non c'è mai stato un allarme su quella zona. Ecco, gli allarmi degli ultimi mesi invece come li giudica lei? Ma gli allarmi degli ultimi mesi sono... allora, c'è un allarme... Sono di routine all'Aquila, uguali? Allora, ahimè, in questa città si discute da 4 mesi se bisogna evacuarsi o non evacuarsi, se esiste un metodo prevedibile o no. La comunità scientifica ha sempre sostenuto che non esiste una possibilità di prevedere una cosa. Invece è chiaro, è evidente a tutti che L'Aquila è da sempre una città sismica. Ho capito, ma cosa c'è stato di diverso negli ultimi mesi rispetto ad altri anni? C'è stata una scossa che ha superato... No, a parte quello che è successo domenica notte, cioè i 4 mesi che hanno preceduto la grande scossa, diciamo, la scossa di domenica notte, sono stati diversi dai primi mesi dell'anno di tutti gli anni passati? Non c'è dubbio che sono diversi da quelli che sono stati negli ultimi, diciamo, 10 anni. Noi aquilani ricordavamo uno sciame fino alla scossa drammatica. Ricordavamo un periodo così nell'85-86. Ho capito. Che però poi non ha portato la grande scossa. La ringrazio molto, buona serata. Grazie a Luca D'Innocenzo, presidente e gestore della Casa dello Studente, uno dei drammi dell'Abruzzo. Ultima telefonata, Michele da Bergamo, Gianni da Milano, Daniele da Milano e altri. Ci sentiamo domani. Michele, 30 secondi, sì, grazie. Sì, buonasera. Soltanto volevo intervenire rapidamente sulla polemica innescata dalla signora Pezzopane per quanto riguarda l'arrivo del ministro Zaia. Sì. È piuttosto pretestuosa, perché è mirata alla persona, anche offensiva, perché il ministro, come in qualità di ministro della Repubblica, deve rispondere ai giornalisti e rendere conto di quello che... No, deve mi fare scusi, Michele, fare. Michele, lei... Seconda di... cosa, sì. Un'altra cosa soltanto. Le faccio vedere la nota polemica dove arriva. Se mi dice che lei aspettava da un elicottero che arrivassero i VC mobili, penso che lei li conosca, i VC mobili, potrebbero mai essere caricati. Ha detto gli aiuti in generale. Sì, d'accordo, ma non è questo il punto. Michele, il presidente della provincia Pezzopane ha detto: è scandaloso che il ministro Zaia sia arrivato con l'elicottero, si sia a Donna, non so dove, si sia fatto intervistare e se ne sia andato. Se le cose sono andate così, effettivamente è un po' bizzarro. Il ministro ha rilasciato anche dichiarazioni su quello che farà, come sempre il suo intendimento fare. Sì, si possono fare dichiarazioni anche al ministero, non bisogna andare a Donna per fare dichiarazioni, se bisogna fare dichiarazioni. E bisogna chiedersi il perché della presenza di alcuni politici, di alcuni ministri in particolare, non solo esponenti politici del centrodestra, anche del centrosinistra sono andati, cioè un po' tutti. Perché si va là? Per un atto di presenza, di solidarietà, eccetera, oppure per altri motivi, per farsi pubblicità, per farsi intervistare? Cioè, ogni missione deve avere una caratteristica specifica, uno scopo specifico, altrimenti è una passerella. Ci sentiamo domani 18:30.